niente. Eppure tua madre dice che sono un delinquente. Avrebbe desiderato il genero laureato. Invece è beccato il fidanzato disoccupato. Sono molto preoccupato, non mi hai più richiamato. Ti ho visto ieri sera il BMW metallizzato, guidato dal biondino e per questo vi ho pedinato. A bordo dello scooter appena rubato. Dimmi che non andrebbe via da me. Io per te metterei la testa a posto. Non si può scopare senza provare a gusto. A letto con una friggita per me è un vero disastro. Faccio sogni erotici che destano scandalo. La curi mi massuffa mentre pensa che avrei il gargo. Di fronte a me c'è il renga che spava dalla bocca. Perché lo incita a guardare a un brangiolini che mi tocca. Se la tua tipa giusta non ti gusta, copriti la testa con la busta. Con un buco per la bocca, bocca, bocca. Un buco per la bocca, la bocca, la bocca. E se la tua ragazza fa la troietta, legali una busta intorno alla testa. Senza buco per la bocca, bocca, bocca. Un buco per la bocca, la bocca, la bocca. Di me in giro si dice che ho rapporti a rischio, ma rischio il confisco da parte del fisco. Lasciatemi cantare, io vi conquisto il cuore con baffette e mandolino, cantando solo mio. A te serve un ragazzo come Riccardo Scamaccio, non di un cantante che sia più sconosciuto di Mondomaccio. So di essere patetico, ma non sono pagliaccio, perché non mi vanto degli attrici che non mi faccio. So di essere ridicolo quando slacci i pantaloni, ti bispiglio nell'orecchio. Cosa faccio lo scopone? Mi prenderesti la testa e la spaccheresti alla finestra. Ma sei già appoggiata nuda al davanzale della finestra. Se soldi permettessero io ti darei un gioiello, qualcosa di grande e di bello. Non sono io a dirlo, so qualcosa di bello, ma qualcosa di grande, un gioiello tra le gambe. Se la tua tipa giusta non ti gusta, copri la testa con la busta. Con un buco per la bocca, bocca, bocca. Un buco per la bocca, la bocca, la bocca. E se la tua ragazza fa la troietta, legali una busta intorno alla testa. Senza buco per la bocca, bocca, bocca. Un buco per la bocca, la bocca, la bocca. Ieri sera mia madre mi ha cacciato di casa, perché vuole che mi sposti e mi faccia una strada. Io per Natale gli ho comprato le Prada ed un biglietto che ho scritto: ma vaffanculo puttana. Se lavoro tutti i giorni guadagnerò un sacco, ma per pacco come faccio a non dare di matto? Nella vita ho fatto cose di cui non mi vanto, del motivo per cui canto, meglio se non ne parlo. Tu sogni Monte Carlo, le macchine, i gioielli, l'abito da sposa di Carlo Pignatelli. Tu sogni due gemelli, io non voglio manco quelli. Tu Federico Moccia, io Rocco Siffredi. Vorrei inchinarmi ai tuoi piedi perché per me sei importante, ma non dirmi che nessuno ti ha mai tolto le mutande, perché tutte son vergini quando te le scopri al buio. Tu sei solo nelle orecchie, pure lì mi sorge il dubbio. Se la tua tipa giusta non ti gusta, copri la testa con la busta. Con un buco per la bocca, bocca, bocca. Un buco per la bocca, la bocca, la bocca. E se la tua ragazza fa la troietta, legali una busta intorno alla testa. Senza buco per la bocca, bocca, bocca. Un